E siamo tornati in onda, Lucri Giogio e Lucri, il nostro martedì di Fusico Factory. Vi avevamo promesso un'intervista e ora ci siamo, quindi... È la nostra ultima puntata, però vi abbiamo detto che avremmo finito con il botto, quindi abbiamo questa intervista di cui siamo molto orgogliosi, ma ve la sveliamo piano piano. Beh sì, bisogna fare la solita presentazione, no? Un po' come facciamo sempre. Allora, noi vi diciamo già che sono un iconico duo pop che ha stregato il pubblico durante la 12ª edizione di X Factor, che già a dire così, Gio, fa un po' forse intuire di chi stiamo parlando. Loro stanno tornando con un nuovo singolo che tra l'altro, Gio, è per la prima volta in italiano. È un loro nuovo capitolo che si avvicina ad un nuovo album, un nuovo percorso e una nuova scena musicale in Italia. Quindi il loro album uscirà prestissimo, speriamo, sarà in italiano come questo singolo. Li vuoi presentare tu, Gio? Beh, sono Sam e Stan. Ciao ragazzi, come state? Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Allora, è un piacere avervi in onda qui con noi, questa è la nostra ultima puntata e quindi, insomma, è molto bello essere in vostra compagnia sui 103.1. Come state? Siamo molto bene, siamo appunto molto esaltati in questi giorni per l'uscita di KO. È bello vedere, no? Vedere come... i primi riscontri, i primi feedback di un progetto comunque totalmente nuovo. Beh, infatti abbiamo visto che sta andando bene sia su Spotify anche su iTunes, quindi dai, raccontateci un po' i primi appunti feedback. È appena uscito, sì, in questi giorni. Questo è il pezzo che sta facendo più numeri nelle prime ore rispetto agli altri. Sicuramente l'italiano ci ha aiutati molto, no, ad avere più diffusione in Italia e non ce l'aspettavamo, anche perché musicalmente è ancora più hardcore forse dei nostri vecchi lavori, però questa cosa ci mette tanta carica, siamo davvero contenti. Tra l'altro non siete solo voi, ma ci sono delle barre rap. Com'è nata questa collaborazione? Raccontatecela. Ma allora, all'inizio, quando insomma abbiamo iniziato a produrre il pezzo, c'erano delle parti che necessitavano, secondo noi, di appunto delle barre rap abbastanza aggressive, no? Quindi pensavamo, non so, a un Kanye West italiano, una cosa del genere. Quindi siamo andati un po' alla ricerca di rapper e trapper interessanti e è saltato fuori Yamat, che ci ha, insomma, fatto innamorare il primo colpo. Sì, Yamat ha un bel compromesso tra rap e pop, un po' vecchio stile, con la trap un po'... beat sono andati un po' a rallentarsi, un po' tanto, quindi in realtà è stata una ricerca dura, però siamo molto contenti, abbiamo trovato un fratellino. E quindi K.O., che momento descrive per voi? Allora, K.O. è stata scritta qualche mese fa ed è stato in un periodo un po' difficile per noi, nel senso che forse percepivamo, è stato un po' un periodo morto per noi, quindi è stato, dopo il tour, è stato il momento in cui ci siamo trovati un po' così senza qualcosa da fare nel concreto, no? E quindi questo ci ha un po' stimolati in realtà a iniziare a scrivere un nuovo capitolo, e quindi K.O. parla sostanzialmente di rinascita, di voglia di spaccare. Esatto, come dice il pezzo, proprio nel momento in cui capisci di toccare il fondo, che scopri di avere delle energie nuove. E K.O. parla appunto di questo, di riscatto. Ed è un messaggio molto bello. Voi parlavate di rinascita e a me viene in mente, allora parliamo anche di nascita. Voi vi siete conosciuti nel 2007 in un blog di musica. Da quel giorno vi aspettavate tutto questo? Vi aspettavate di arrivare dove siete arrivati? Noi vi auguriamo comunque di arrivare sempre più in alto. Oh, grazie. Ma in realtà siamo rimasti tipo 5 anni... come conoscenti, amici virtuali. Uno dei due poteva essere Marco Stagirone, in realtà esistiamo entrambi, ci siamo rincontrati dopo appunto 5 anni e da lì poi è nato tutto, cioè anche il progetto musicale era un po' un sogno che avevamo entrambi nel cassetto, che non avevamo avuto modo di esternarlo e quindi è stato un po', no, il nostro, il rapporto delle prime volte, un po' per tutto. Io volevo intanto farvi i complimenti anche per la base del pezzo, l'avete prodotta grazie, voi? Grazie, sì, l'abbiamo coprodotta con Valentino Nicastro, che è un produttore giovanissimo, emergente, di cui ci siamo innamorati artisticamente tantissimo, e con cui appunto abbiamo prodotto anche altre tracce del nuovo disco, e ci siamo ispirati alla scena nord europea elettronica, che ultimamente prende anche tante influenze dall'Eurodance, mischiandole con batterie, beat più urban, quindi siamo sempre in costante ricerca, no? E ci fa piacere ogni volta mettere dentro tutte le cose che appartengono un po' al nostro mondo. Questo è sicuramente il pezzo più folle che abbiamo tirato fuori finora. No, anche perché comunque a me piacerebbe parlare del vostro lato un po' self-made, no? Ancora prima di X Factor vi so che vi producevate le basi, stavate attenti al look, i video, era un'opera che partiva dalla vostra idea fino al risultato finale, giusto? Sì, ma tuttora non è così. Tuttora è così. È bello questo. Finché eravamo da soli eravamo costretti a farlo, no? Poi di base nasciamo anche come creativi visivi, quindi ci piace anche avere il controllo di tutto quello che è il progetto 360 gradi, dalla comunicazione alla performance, che per noi è importante quasi tanto quanto, no? Siamo un po' della scuola di David Bowie, no? Di Sound and Vision, che vanno di pari passo, quindi ogni pezzo, ogni show viene creato, la parte visiva nasce in contemporanea a quella musicale. Voi avete vinto nel 2018, avete ritirato il premio dei Diversity Media Award per il miglior programma TV dedicato a X Factor, visto che io credo che voi siete stati fondamentali per la vincita di questo premio. Cosa ha rappresentato per voi e se vi sentite comunque in un qualche modo che portate avanti anche questo messaggio, quindi anche l'importanza della diversità e insomma cosa è stato per voi ritirare questo premio? In realtà è stata una grande soddisfazione perché, beh, insomma, anche grazie alla complicità di X Factor c'è stata, secondo me, una bella narrazione, no? Di quello che siamo e di quello che poi alla fine abbiamo rappresentato all'interno del programma. Quindi il fatto di, appunto, di ritirare un premio è stata un po' una celebrazione di questa cosa. E poi, beh, noi anche nel mondo musicale ci sentiamo comunque molto, come dire, paladini, no? Nel senso che rappresentiamo, secondo noi, un movimento che in Italia ancora purtroppo fatica ad emergere, che è quello comunque del queer pop, che insomma, di cui credo forse siamo gli unici rappresentanti in questo momento, però insomma è bello anche essere i primi a volte. Certo. È più difficile, però... Beh, aprite la strada, no? Esatto, speriamo. Speriamo che poi, esatto, arriveranno anche altre persone. Beh, in questi mesi avete comunque preso parte a tanti progetti, siete stati scelti come ambassador all'Euro Pride a Stoccolma e siete stati selezionati appunto come Italian Act per l'Eurosonic in Olanda. Avete collaborato con Manuel Agnelli e appunto sappiamo che avete aperto il concerto, l'unica data, quella storica, insomma, al Mediolanum. E quindi volevamo anche chiedervi com'è stato vivere questi anni, questi grandi eventi. Sì, l'ultimo anno è stato un po' un uragano di tantissime cose che non avremmo mai immaginato di fare già un anno e mezzo fa. Sicuramente l'esperienza da Sago è stata potente perché noi pochi mesi prima suonavamo in dei piccoli club, magari con 20 persone davanti, e poi di botto avevamo... Era sold out quella sera. Sold out, sono tipo wow. Poi abbiamo avuto modo anche di iniziare a fare le prime date all'estero, che è un po', no, quello... che è la parte che preferiamo un po' di questa vita, no? Viaggiare, conquistare il mondo, diciamo sempre il nostro sogno è quello di conquistare il mondo. Siamo stati al Pride di Amburgo, all'Euro Pride di Stoccolma, quest'anno torneremo a quello di Milano. Per noi è davvero importante essere sempre in movimento, noi odiamo rimanere fermi, però a volte quando ascoltiamo K.O. ci rendiamo conto che in quei momenti ci servono anche un po' per recuperare le energie, le idee, per farsi anche degli esami introspettivi e capire cosa hai coltivato e cosa hai di nuovo da dire soprattutto. Beh, allora diciamo che il vostro pezzo, come appunto state dicendo, è stato anche un po' un guardarvi dentro, un guardarvi intorno, capire cosa avete fatto fino adesso, però iniziare anche a guardare cosa fare più avanti, tra cui dovete far uscire il nuovo album, giusto? Assolutamente sì, questo è il primo di una serie di singoli che usciranno da qui nei prossimi mesi. Tutti questi singoli comunque parlano un po' di un concept che si svilupperà successivamente in un album. Siamo comunque ancora in fase creativa, nel senso che ha tutto un corpo, ma vogliamo ancora scrivere qualcos'altro prima di chiudere decisamente il disco. Beh, noi allora poi vi aspetteremo quando usciranno anche i prossimi singoli, quando uscirà l'album, quando volete. Radio Città Fucico vi aspetta a braccia aperte. Grazie. Noi vi facciamo un super in bocca al lupo per tutto. Sì, assolutamente. Grazie ragazzi, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao. Grazie mille. Buon pomeriggio.